Allora, dato che tra poco si manderà in onda per il radioteatro l'Armata dei Sonnambuli, ci sembrava anche una bella cosa sentire direttamente i Wu Ming, che di quel testo sono gli autori prima ancora dello spettacolo teatrale. E allora abbiamo in collegamento Wu Ming 1, ci sei? Ci sono, ciao a tutti. Ciao. Benvenuto al radioteatro su Onda Rossa. Allora, io ho avuto anche la fortuna di assistere all'incontro che c'è stato all'ex asilo Filangieri occupato a Napoli, per parlare proprio del rapporto tra testo e spettacolo. Davvero un bell'incontro, pieno e denso, e con diversi spunti molto interessanti. Allora, ti chiedo intanto di ripeterci qualcosa qui in diretta radio, ad esempio la genesi complessa di questo libro. Sì, l'Armata dei Sonnambuli è stata una delle nostre produzioni più sofferte, era nata come secondo libro di una trilogia partita con Manituana, quindi in teoria doveva essere un'opera di collegamento, un'opera sì, di giuntura intermedia. Il trittico atlantico, lo chiamavamo, doveva essere una panoramica sulle rivoluzioni atlantiche, cioè sulle due sponde dell'oceano, del Settecento, quindi appunto un momento cruciale nella definizione del nostro presente, il momento in cui insomma la borghesia prende il potere politico, in cui gli Stati Uniti si separano dall'Europa, insomma sono successe tante cose nel giro di una trentina d'anni. E quindi ci eravamo messi al lavoro, abbiamo avuto un sacco di false partenze, avevamo concepito gli interi plot per poi buttarli via, e alla fine ci eravamo assestati su scrivere un romanzo che si svolgesse durante il terrore, e c'era venuta un po' di idee che doveva essere un romanzo incentrato su Scaramouche, appunto la maschera della commedia dell'arte, che è già protagonista di alcuni romanzi importanti e soprattutto del romanzo d'avventure Scaramouche di Raffaele Sabatini, che è del 1921. E da lì tutta una serie di riflessioni sul teatro, appunto anche sulla rivoluzione come teatro, sul palcoscenico del mondo, e anche perché il teatro era molto importante all'epoca della rivoluzione francese, e proprio il nuovo governo rivoluzionario investì molto su opere educative, opere diremmo oggi di propaganda, contro la chiesa, contro i nobili, contro le potenze reazionarie che minacciavano la Francia giacobina, eccetera. E poi l'altra cosa, leggevo un libro che si chiamava Il mesmerismo, il secolo dei lumi, su Franz Anton Mesmer, questo proto psicanalista a lungo considerato solo un ciarlatano, poi si è scoperto in realtà che è stato in qualche modo un precursore di una ricerca, e da lì derivano sia la psicanalisi sia l'ipnoterapia sia le neuroscienze. In un certo modo aveva intuito delle cose che però nel frame epistemologico scientifico dell'epoca non ci stavano, e quindi passava per un ciarlatano. E l'altra cosa era le donne, l'importanza delle donne, il protagonismo delle donne nella rivoluzione francese. Come dice Marie, anche nello spettacolo, senza le donne la rivoluzione manco cominciava. E ci abbiamo lavorato tanto questo romanzo, appunto anche lì, una volta che avevamo definito la trama, comunque un sacco di riscritture faticose, abbiamo rallentato il lavoro, l'abbiamo riaccelerato, l'abbiamo fermato per riflettere, poi l'abbiamo ripreso. In tutto la gestazione di quel libro è durata 6 anni, proprio Marie era uno dei problemi. Noi siamo un collettivo interamente maschile, quindi c'è molto testosterone alle nostre riunioni, siamo partiti da modelli di letteratura molto mascolini, e però col tempo insomma ci siamo interrogati sempre di più su un limite che spesso hanno gli autori maschi, perlomeno quelli meno bravi o quelli insomma all'inizio. Cioè noi ad esempio in Q i nostri personaggi femminili erano terribilmente stereotipati e subordinati alle parabole di quelli maschili, questa cosa sì, ci fu contestata. decidemmo di lavorarci sopra. L'Armata dei Sonnambuli doveva avere al centro un personaggio femminile credibile, umano, a tutto tondo, non stereotipato, vivo, e quella è stata la cosa più difficile, quello che ci ha fatto mettere così tanto tempo per finirlo. Quando poi, l'ho detto anche all'ex asilo Filangeri, quando poi ho rivisto Marie in scena, l'ho vista in carne e ossa, ho visto Marie materializzarsi e inveire contro il potere maschile, e ho sentito proprio, l'ho sentita di nuovo inveire contro di noi quando sbagliavamo a scrivere una sua scena, lei ci urlava dalle pagine: che cazzo fate? No, sentirla inveire su quel palco è stato veramente un'epifania. E in generale le mie reazioni allo spettacolo chiaramente sono peculiari, sì, essendo uno di quelli che hanno scritto la maggior parte delle frasi che poi sono finite enunciate, recitate su quel palco. Per me hanno proprio preso vita i personaggi, ho saputo ovviamente riconoscere il finissimo lavoro drammaturgico che c'è stato di Linda Galisi, anche le intuizioni di regia di Pino Carbone, le interpretazioni, le prove d'attore, ho saputo fare ingegneria inversa, ovviamente capire esattamente che scelte sono state fatte. Penso che chi ha letto il romanzo è in grado in un certo modo di capire bene, di cogliere bene molte implicazioni e molte scelte. Sì. Chi non lo ha letto si gode lo spettacolo come un concerto, e quindi mi fa molto piacere che l'audio venga trasmesso via radio, perché è proprio, ci sta da Dio. Sì, ecco. Sì. Senti, ecco, hai giustamente ricordato il lavoro né di riduzione né di adattamento, ma di vera e propria drammaturgia di Linda Dalisi, e a questo punto ti chiedo anche quali sono, anche per far capire a chi ci ascolta, rispetto al libro, le modificazioni strutturali del testo teatrale, che si concentra sia a livello delle scelte temporali che delle scelte dei personaggi, rispetto ai personaggi. Sì. Le scelte temporali sono particolari, perché sarebbe stato impossibile riprodurre la struttura del romanzo nella drammaturgia dello spettacolo, perché nel romanzo ci sono le scene alternate, concatenate, delle varie sottotrame che procedono tutte sincronicamente, sono tutte contemporanee l'una all'altra. Prendiamo un personaggio che compie una certa azione, nel capitolo successivo passiamo a un altro personaggio dell'altra sottotrama che fa quello che deve fare nello stesso momento, no? Quindi c'è una sincronia. Invece la scelta che è stata fatta nello spettacolo è di mettere le sottotrame una dopo l'altra, non contemporanee l'una all'altra, non si svolgono contemporaneamente, ma prima si svolge una, poi si svolge un'altra, poi un'altra. Prima c'è l'ouverture, dove la voce che sentiamo è la voce del popolo, quella che noi abbiamo chiamato la vox plebis, che si esprime in quel particolare gergo che c'è nel romanzo anche. Poi c'è Marie, e vediamo tutta la parabola di Marie. Poi c'è Dan Blanc, e vediamo tutta la parabola di Dan Blanc, che è questo medico magnetista. Poi c'è Laplace, che è il cattivo, il villain, il reazionario, il protofascista, quello che è all'inizio del romanzo è internato a Bicêtre, ecco. E poi alla fine c'è Léon Modenet, Scaramouche, l'attore bolognese spiantato che vive sotto i ponti a Parigi, che diventa un supereroe. Quindi la scelta è stata questa: c'è un momento di connessione che fa capire esattamente in che punto del tempo ci troviamo, è una scena che si ripete uguale per tutte le sottotrame, ed è l'annuncio della morte di Jean-Paul Marat. Marat è morto, Marat non è più, e il commento di tutti i personaggi è sempre: cazzo. Sì. Oh, un altro elemento che contraddistingue il romanzo è l'uso del linguaggio, che lo spettacolo ha fatto proprio. Sì, e devo dire che quel linguaggio in bocca insomma al personaggio che interpreta la vox plebis, che è un personaggio senza nome, come nel romanzo all'inizio, ci sta bene, insomma. Ho sentito proprio un agio, un abitare quella lingua, un calzare, cioè trovarla calzante, indossarla bene. quella lingua è stata costruita con un lavoro abbastanza complesso, perché abbiamo prima creato un calco italiano del gergo dei sanculotti parigini, cioè della base, diciamo così, artigiana e proletaria del processo rivoluzionario, quello degli Issi, dove appunto era un altro tipo di dinamica che si era creata, ma a un certo punto dopo il 1992 i giacobini si trovano proprio a essere la base, il gruppo di pressione del processo rivoluzionario, con anche frustrazioni, delusioni, però spesso riuscendo a imprimere delle svolte a chi stava in alto. E noi abbiamo ricostruito in italiano il loro gergo usando degli studi di linguistica e storici che sono stati fatti in Francia. Abbiamo compilato un lungo vocabolario di parole e modi di dire, dopodiché le abbiamo sporcate, o meglio, abbiamo disciacquato i panni nel Reno, non il Reno tedesco ma il Reno emiliano, e nel Po, segnatamente il Po di Volano, perché noi siamo bolognesi e ferraresi nel collettivo, e quindi abbiamo inserito tutta una serie di emilianismi in modo anche noi da trovarci più a nostro agio nello scrivere in quella lingua, sentirla più vicina a noi, divertirci anche di più. E qui il risultato è questa strana sporcatura emiliana, francese e di gergo delle classi pericolose reinventato da noi, che sentirete anche nello spettacolo. In chiusura, novità prossime Wuming? Allora, Wuming come collettivo sta lavorando a un libro, a un romanzo russo, e non aggiungo molto di più. Okay. Dopodiché ciascuno di noi ha i suoi progetti in cantiere e quindi siamo sempre una fucina in piena operatività. Bene, bene. Allora io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Ah, un abbraccio anche a voi, a presto. A presto. Ciao.